sulla terra a fare il giro della morte. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte in altalena. Era mezzogiorno al parco, c'era solo il nonno e la bambina. Faceva troppo freddo al parco, c'erano gli alberi a guardare. C'è chi dice l'hanno preso gli extraterrestri e l'han portato sulla nave spaziale. C'è chi dice l'hanno preso i marziani per poterlo studiare. C'è chi dice l'hanno preso gli zingari e l'han portato in un campo fuori Roma. C'è chi dice l'hanno preso gli alberi, l'hanno nascosto nella chioma. Nazionale raccolse tutte le dichiarazioni e la bambina disse: non guardavo, mi ero innamorata. Il nonno disse: sono stati gli alberi. C'è chi dice l'hanno preso gli zingari e l'han portato in un campo fuori Roma. C'è chi dice l'hanno preso gli alberi, l'hanno nascosto nella chioma, nella chioma. Fu il solo sulla terra a fare il giro della morte. Sparì oltre la cima degli alberi come una stella cadente nella notte. Appena passato carnevale e c'è chi ha detto: io l'ho visto volare sopra al cielo del Giappone con ancora addosso la maschera, il cappello e il mantello nero di Zorro.